Il pensatoio, da Ricette per il caos, manuale di resistenza urbana. Istruzioni. Un metodo di collaborazione intensiva. Un pensatoio è un periodo di isolamento e concentrazione che ci si autoimpone a scopi creativi. Permette ai partecipanti di vivere dentro il processo creativo, di focalizzare l'attenzione e di liberare l'immaginazione. Il metodo del pensatoio verte sullo studio di diverse formule di produzione e interazione. Un pensatoio non è solamente un modo per produrre risultati, ma è anche un mezzo per sperimentare con il processo. Un pensatoio può produrre scienza, spettacolo, storie, musica, guarigione, arte, una macchina, una filosofia. La composizione del pensatoio determina le condizioni, le regole, i materiali, i mezzi e gli individui con cui questi prodotti vengono abbozzati. Gli obiettivi esatti di un pensatoio potrebbero anche non essere stabiliti in anticipo. Lo sviluppo di obiettivi può essere già di per sé un obiettivo. Un pensatoio è una libera università. Al suo interno si affinano le intelligenze e le capacità. Di conseguenza, gli oggetti, le intuizioni e i modi di vita che ne derivano devono essere condivisi. È lo spirito con cui abbiamo messo insieme questa guida. È un quadro di idee, non una lista di regole. I testi in corsivo sono aneddoti o esempi di specifici progetti. Se realizzate un pensatoio, o come accidenti lo volete chiamare, ricordatevi anche di passare ad altri le vostre scoperte. Premessa 1. In un pensatoio, una determinata quantità di tempo, 2 settimane per esempio, viene dedicata a un obiettivo specifico. Tra gli esempi di questi obiettivi può esserci la progettazione e la costruzione di un meccanismo o di un'opera d'arte, la produzione di una performance o di un intervento, l'occupazione di uno spazio atipico, la creazione di una pubblicazione, la costruzione di un aereo alimentato al latte o tutte queste cose insieme. L'obiettivo dichiarato di un pensatoio non è il suo fine ultimo, ma piuttosto un mezzo per conseguirlo. Il fine ultimo è condurre e godere un esperimento di collaborazione. Per questa ragione, in alcuni casi, basta stabilire le condizioni del pensatoio e lasciare che i suoi obiettivi si sviluppino mentre si esplorano queste condizioni. Premessa 2. Un pensatoio è intenso e concentrato. Per questo può generare nei partecipanti la stessa eccitazione, la stessa urgenza e gli stessi poteri soprannaturali che altrimenti si manifestano soltanto durante le calamità naturali, le insurrezioni popolari, la discussione di una tesi e altre emergenze simili, senza sgradevoli effetti collaterali. Giorno 11, mezzogiorno. Stavo cucendo un Arnold Schwarzenegger gonfiabile. Drew era nello scantinato a sistemare delle ritmiche sul sequencer. Eric stava cercando di trovare un proiettore. Jason stava controllando le ultime magliette e gli ultimi poster e Chris, mentre andava a prendere un motore elettrico usando la sua bicicletta con carrello, era riuscita a trovare in un cassonetto 2 pizze e una testa di cavolo che abbiamo mangiato per pranzo. Premessa 3. Un pensatoio è olistico. Ogni istante di vita durante il pensatoio appartiene al progetto. Non ci sono pause pranzo o ore di attività. Per quel dato periodo il pensatoio è in vigore 24 ore al giorno. Attività come mangiare e dormire sono parte integrante del progetto e non interruzioni, sono integrate in esso come esperimenti o avventure in sé. Carissimo, che tu ci creda o no, ti scrivo da un Walmart. Ormai sono arrivato alla 37ª ora di occupazione. Ho intenzione di restare per 72 ore, ma purtroppo non sono ancora riuscito a trovare un posto adatto per dormire. Figurati, anzi mi hanno appena beccato mentre cercavo di fare un pisolino. Mi stavo sistemando sotto uno scaffale di tute mimetiche e arancioni, quando ho visto un paio di piedi che si avvicinavano. E lei che ci fa là sotto? Ha chiesto la commessa. Ho dato per scontato che mi avrebbero accompagnato fuori o peggio, e così non mi sono preoccupato di fornire una scusa elaborata. Mi nascondo, ho detto, mentre venivo fuori e aspettavo, da bravo criminale, il plotone di esecuzione. Ma è successa la cosa più assurda. La commessa è rimasta lì impalata a guardarmi. Voleva dire qualcosa, ma non riusciva a connettere il cervello. In pochi secondi mi sono allontanato come se nulla fosse. Mi sono tolto la parrucca e ho passato qualche ora nascosto nel reparto riviste. Adesso ha riaperto il radio dinner e sono tornato nel separé dove nascondo la mia tazza di ricambio. Mi sa che la situazione si è calmata. Premessa 4. Progettate il vostro pensatoio come progettereste una macchina. Per sostenere il vostro obiettivo specifico, mettete insieme un gruppo di persone, strutture, materiali e strumenti. Ciascuna parte dovrebbe essere incorporata nel progetto. Per lungo tempo ho avuto in mente un progetto che richiedeva forti conoscenze di meccanica ciclistica e tenacia da inventore. aveva un amico a Boston che le possedeva entrambi. È venuto a McLensville per 2 settimane e così abbiamo fatto un tentativo. Facendo a turno a fare quello che sapevamo fare meglio, siamo riusciti a finire pochi istanti prima che scadesse il tempo. Nel frattempo avevamo imparato parecchio l'uno dall'altro. Al tempo stesso, dimenticate l'idea di arruolare un perfetto mix di specialisti. Un pensatoio non è né una macchina né uno staff dirigenziale. Ci sono degli esperti in piccole cose, ma nessun esperto in grandi cose, e un pensatoio è rigorosamente una cosa grossa. Piuttosto concentratevi sul progettare un ambiente perfetto per le persone che saranno coinvolte. 2 settimane prima di chiuderci dentro, avevamo ancora un posto da riempire. Un amico di un'amica di un amico ci ha consigliato Tera. Non poteva vantare le conoscenze di meccanica che credevamo ci servissero, ma era entusiasta del progetto. E così, alla fine, il progetto si è imperniato tutto sulla sua energia e sulle sue idee. I miei progetti successivi sono stati 1 milione di volte migliori grazie a quell'esperienza. 3 anni dopo mi ha invitato a far parte di un pensatoio che aveva ideato lei. Ho accettato umilmente. Premessa 5. Il pensatoio è prima lo strumento con cui si realizza l'opera e poi la lente attraverso cui si comprendono i risultati. Non potevamo partire con l'idea di avere quei risultati. Prima del progetto non esistevano ancora. Abbiamo semplicemente creato una situazione che sembrava fertile e ci siamo lasciati andare. Abbiamo costruito le nostre Galapagos e abbiamo lasciato che il becco dei suoi uccelli evolvesse da sé. Adesso, perché la nostra performance sia utile al mondo esterno, dovremmo mettercela tutta per ricreare in ogni performance il mondo che l'ha portato alla luce. Annotazione sul diario alla fine del pensatoio numero 8. Premessa 6. Un pensatoio non è temporaneo, è necessariamente temporaneo. Come un salto di 50 metri o un capriccio, un pensatoio per definizione è insostenibile. Ricerca visionaria dei nostri giorni. Il pensatoio fa violenza ai confini tra il sé e il gruppo. Cominciamo come acciaio, ma l'energia del processo è un fuoco che piega le cose. A momenti la linea tra gruppo e individuo diventa fluida, l'inerzia evapora e c'è soltanto cambiamento. Non si può sostenere, non si tratta di sostenere, si tratta di costruire un'intensità fuori dal comune e poi riversarla al momento giusto sul mondo altro. Manifesto del pensatoio per la concentrazione, Jamaica Plan, Massachusetts, 1999. Premessa 7. Le regole di un pensatoio possono apparire rigide e limitanti dall'esterno. Se rinchiudersi dentro certe regole sembra difficile, pensate cosa significa essere chiuso fuori. Regole scelte con cura possono liberare spazi e individui dalle regole implicite che li avevano dominati. Trovare la libertà non significa per forza di cose abbandonare tutte le regole, può voler dire anche scegliere delle regole che hanno il potenziale di rivelare nuove possibilità. Fare una scappata in un negozio, addirittura in una discarica, va contro le nostre regole stabilite. All'inizio sembrava ridicolo. Pensavo sempre cose tipo: abbiamo finito le graffette, davvero, che problema c'è se faccio un salto dal ferramenta? Ma faceva bene. In realtà, passare da una mentalità consumista in cui le soluzioni sono già pronte a una mentalità creativa in cui le soluzioni vengono immaginate a partire da ciò che è disponibile, in questo modo ogni risorsa possibile è sotto il nostro naso. Ci investe con la sensazione di una presenza reale. Premessa 8. I metodi per documentare un pensatoio vanno valutati con attenzione. Rifare quella cosa buffa per la macchina fotografica sputtana tutto. Nel nostro primo pensatoio abbiamo esagerato, abbiamo passato la prima settimana a fare tutto 2 volte per avere delle buone foto. Alla fine ci siamo resi conto che ci stavamo perdendo l'esperienza per avere delle foto da guardare. Per la seconda settimana abbiamo lasciato perdere l'onerosa documentazione della speranza che funzionasse la memoria. E funziona. Riflessioni inedite sul pensatoio per il ciclismo sicuro, 1978. Premessa 9. Un pensatoio produce opere d'arte ed è esso stesso un'opera d'arte, resa come transito e alterazione di ogni tipo di spazio. È difficile individuare i confini di questo progetto. Io e Fuller ci siamo legati insieme con una corda invisibile da 8 giorni ormai. Lui assaggia gli spaghetti di Food Not Bombs e io dico: manca il sale. Abbiamo disperato bisogno di far funzionare questo spettacolo. La nostra intensità lascia tracce su tappeti e marciapiedi, appollaiati su una panchina del parco davanti al terzo locale. Siamo alle prese con la decisione dell'ultimo minuto. Vedo la mia ansia espressa sui volti di passanti innocenti. Ovunque andiamo c'è un vortice, ovunque andiamo piove. Simposio del Very New Music Tour 2000. Premessa 10. Un pensatoio è la sofferenza di un mondo nuovo. Per quanto possa diventare forte dentro, è vulnerabile alle cose esterne. Come il più epico dei sogni, per scacciarlo dai ricordi, basta una sola fessura di luce sotto la porta. Prendete dei provvedimenti per isolare il gruppo. Andate da qualche altra parte. Trovate un terreno neutro, barrate la porta, strappate il telefono dalla parete, di controllare la posta elettronica non se ne parla proprio. Dopo 2 settimane noi cinque eravamo quasi una cosa sola. Non me ne ero neanche accorto in realtà, finché non ci siamo usciti. È stato orribile viaggiare in macchina separate. Il legame era profondo, c'era una sincronia incredibile, specialmente sul palco. Pensa a un momento straordinario in cui abbiamo aumentato il ritmo dall'impazzata, in un crescendo di percussioni assordanti e incasinate, e poi di colpo ci siamo fermati tutti sul filo del rasoio. Ricordo di aver aperto gli occhi nel silenzio più totale, prima che la gente si ricordasse di applaudire. Da un'intervista agli Autorevision 2001 su Co Family Zin. Premessa 11. Un pensatoio è un visitatore, un avvenimento simultaneo ma separato. Quando un pensatoio è finito, è impossibile tornare indietro. Quanto alla vostra vita pre-pensatoio, lasciate un recapito, non tornerete mai più a casa. Era come se mi fossi abituata a una situazione di assenza di gravità. Quando sono uscito da quella casa, tutto a un tratto pesavo di nuovo 60 kg. Per qualche giorno riuscivo a muovermi a stento, e in più mi facevano male gli occhi per la luce. Estratto da una lettera di Kelly, St. Petersburg. Kelly e altri tre hanno fatto scorta di cibo e acqua, sono entrati in una casa abbandonata e hanno deciso soltanto che sarebbero rimasti lì per 10 giorni. Al terzo giorno avevano deciso di bendarsi e costruire un santuario. Se ho capito bene, adesso c'è una scultura a forma di testa di cervo gigante in una casa vuota a St. Petersburg. Estratto da Ricette per il Caos, Manuale di Resistenza Urbana. Bisogna avere sempre un piano segreto. Dipende tutto da questo. Pianificare l'avventura, il piacere, il caos. Come vi pare, ma fate dei piani, segretamente e senza tregua.